la trasmissione dalle 2 alle 3 e mezza e all'inizio parlavate più o meno per 44 minuti, ora siete scesi a 34 minuti, il resto è pubblicità, interruzioni varie, queste storie qua. Volevo solo farvi questo piccolo conto, che parlate sempre di meno, a noi ci interesserebbe che voi parlaste un po' di più. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Ho vissuto tanti anni, 7-8 in Italia, vuol dire che qualcosa mi ha lasciato tanti allenatori che hanno passato per la squadra che ho stato io, e senza dubbio quello mi ha fatto pensare in questo tipo di gioco che faccio. Non ho una idea soltanto che è italiana, è una idea molto generale, dovuto a che sono argentino, ho giocato tanto in Spagna, ho visto tanto calcio tanto in Spagna, in Argentina come in Italia, e allora ho riuscito a prendere da ogni posto dove sono stato le sue cose migliori. Avevo un allenatore in Italia che ci diceva sempre: quando uno gioca veloce sugli spazi, gli altri tardano tanto tempo in riaccomodarsi. Ora, quando uno gioca sul piedi, evidentemente gli altri più velocemente riescono a trovare gli spazi. Sempre pensando nella squadra che uno ha, può giocare di una maniera o dell'altra. Noi nell'Atletico di Madrid, senza dubbio, siamo più adatti a questa forma. E per adesso va bene. Non c'è stata la solita esultanza alla Simeone? Mai, mai. Queste partite non si permettono esultare per un solo gol, un gol con è poco, è una gara che dura tanto, che dura tanto tempo. 800 24 00 24, io mi dichiaro, io sono difensivista, cioè, l'Atletico Madrid però, è il calcio, altro che il pullman davanti alla porta. Il calcio non esiste un solo, non esiste, adesso c'è un po' il no, non esiste solo uno, non esiste solo un calcio. Il calcio di uno che si organizza, il calcio di possesso di palla, di possession, il calcio di difesa e di ripartenza. Sì, poi tu fai il possesso di palla per il 75% come Guardiola ieri sera. Lasci all'avversario tre occasioni solo davanti al portiere. I soldati a difendere il fortino, dipende da come lo difendi il fortino. Ma secondo te, Sacchi, come l'ha presa ieri sera? Guarda, se si gioca come dico io, sì, si vince. Se si gioca come dici tu, si perde. No, e invece si vince anche se si gioca come... Aspetta, te lo faccio sentire, eh. Sacchi, ieri sera, dopo Atletico Madrid-Bayern. Credo che Simeone abbia imparato molto dall'Italia, sì. Perché è un'espressione difensiva non tipica del calcio mondiale, e abbiamo imparato molto di questo, e però ripeto, non a differenza di molte squadre che hanno come riferimento l'avversario, loro prima di tutto hanno i compagni. A parte che non ho capito cosa significa avere riferimento ai compagni e non l'avversario, però c'è sempre questa cosa dietro per cui sei difensivista, giochi in trincea. Ma guarda che lo pensano anche ad esempio di Ranieri e dell'Leicester. E invece è meraviglioso, il calcio è questo, tant'è vero. E questo è il calcio dove un club che fattura come il Napoli può buttare fuori il Barcellona, e magari settimana prossima butterà fuori il Bayern Monaco. Il Leicester, che è l'Empoli d'Inghilterra, magari domenica vince la Premier. E io dico, questo è il calcio, altro che il tiki-taka di Guardiola e quelle robe ma lì. Ma allora, questo è il calcio. Ma io ti ribadisco, secondo me non esiste un calcio solo. È molto bello. Allora, su Simeone c'è, diciamo, una sorta di immunità, nel senso che Simeone è anche per i Seguroliani, fra l'altro l'ho incontrato l'altra sera a Manchester, Santiago Segurola, che sappiamo è un argentino ed è il capostipite della filosofia molto estetica del calcio offensivo spagnolo, fa molta opinione in Spagna. E beh, insomma, c'è da dire che loro, però, come ci racconta Ricci mille volte, Simeone lo perdonano sempre, cioè anche nei momenti in cui il catenaccio si spinge verso vertici aerei, precipizi, come diceva il poeta, e poi alla fine viene sempre comunque considerato come una cosa sana. Sempre, se quello di ieri è catenaccio, ho visto una squadra che ha portato bene, a spasso il Bayern di Guardiola. Sì, ho visto chiaramente la partita, ho visto il post partita con Sacchi, anch'io sono rimasto colpito dal fatto che anche Sacchi abbia comunque riconosciuto i meriti dell'Atletico Madrid, ma perché? Perché appunto non esiste un calcio solo, esiste il calcio ben giocato e quello giocato male. Poi è ovvio che filosoficamente sono due concetti agli antipodi, però insomma giù il cappello su questo Atletico Madrid. Anzi, delle cose che ha detto Sacchi, la cosa che mi ha colpito di più è che vede un Bayern che ha perso un po' di fame, che ha perso un po' di voglia, di grinta. In effetti la sensazione è questa, che sia una squadra sempre fortissima ma abbastanza intermittente. Si è un po' fermata, sai quando? Si è fermata dopo 60 minuti della partita d'andata contro la Juventus. Cioè ha fatto i primi 60 minuti che sembrava la classica squadra di Guardiola, poi da lì in poi si è persa, ma anche col Benfica, è una squadra che non ha fatto impazzire. 8-0-0-24-0-0-24. Noi qui siamo assolutamente difensivisti come il Ciolo Simeone, anzi io mi sbilancio, vincerà la Champions League, quest'anno ce la fa, perché giusto così Ranieri vincerà la Premier e sarà la rivincita del calcio, quello meno bello ma che è il calcio. 800-24-0024, vi aspettiamo. Adesso parliamo, facciamo sentire dopo anche Mancini, che ha parlato di Simeone e del ritorno magari fra qualche anno all'Inter. Poi abbiamo il solito appuntamento con le vicende milaniste. Sì. C'è la smentita meravigliosa di Jack Ma, sì, sul Twitter cinese. Sì. Vi invito, sì, ad andare a vedere, magari lo postiamo su Twitter, chiocciola tutti convocati. E a me ha colpito molto, Jack Ma, che mette le faccine che ridono per parlare dell'ipotesi di interesse del Milan. Beh, però del resto tutte, scusami, uno che si chiama Ma, sì, insomma, il dubbio è, cioè, ma l'hai visto? Sai cosa ha scritto? È implicito. Ha scritto ma il Milan è la squadra di Milano, esatto. E poi con le faccine che ridono. Dai, traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. Allora, ti leggo alcuni messaggi. 800-24-0024, se volete prenotarvi, siamo qui fino alle 15.30, oppure 349-238-6666, sms e whatsapp. Guarda, c'è un amico che scrive che schifosa squadra questo Atletico, ha giocato a Madrid come a Torino umiliando l'avversario, a parte che secondo me non ha umiliato l'avversario neanche a Torino, tantomeno ieri sera. Poi c'è chi ci dà dei difensivisti, se stiamo dalla parte del Ciolo. Poi un altro amico, Lori, Sacchi ha ragione, perché l'Atletico difende avendo come riferimento il pallone, poi non marcano a uomo, non lo so. Francesco, allora, Colonnese, aspetta che intanto lo salutiamo. Ciao, ciao Ciccio. Buon pomeriggio a voi. Come va? Benissimo, Gianluca. Ma è un difensivista o no, Simeone? È un difensivista? Sì, no, io penso che quando gioca con le squadre avversarie che reputa più forti di lui, è giusto porre un'attenzione nelle partite. Insomma, io, chi segue da tanti anni, forse lo sapete meglio di me, perché sono pardo e attento, perché conosce bene il calcio spagnolo. Insomma, quando gioca con le squadre alla sua altezza non si difende, anzi, è una squadra che cerca di giocare a calcio, fa possesso di palla, insomma, è sempre molto propositiva. Quando gioca, come spesso succede, con squadre tipo Bayern Monaco, Barcellona, Real, che sono indubbiamente più forti dell'Atletico Madrid, ha un'attenzione particolare, come deve fare un grande allenatore, verso le qualità più importanti della squadra avversaria. Assolutamente, anche perché insomma pensare di giocare con possesso palla pari contro il Bayern e il Barcellona è impossibile. Cioè, sono le due squadre che hanno il miglior possesso palla in assoluto. E tutto sommato non serve neanche a niente, no? Non serve neanche a nulla. A parte che non ci riesci, anche se ci provi non ci riesci. No? Bravo. Oltre che non ci riesci dal punto di vista proprio tecnico per le qualità dei giocatori, ma poi perché insomma non serve a nulla. Insomma, l'Atletico Madrid ha dimostrato che quando ha giocato contro queste squadre, insomma, la superiorità schiacciante dell'organico, dell'individualità dei giocatori non si è vista. Insomma, sono sempre state partite molto equilibrate, poteva vincere una, poteva vincere l'altra, poteva vincere in pareggio. Insomma, non c'è stato questo predominio della superiorità tecnica del Real, del Barcellona, del Bayern Monaco. Ma io contesto proprio l'idea che Simeone giochi mettendo il pullman davanti alla porta. Ci sono anche tanti che scrivono: vedrete che a Monaco prenderanno tre gol e andranno a casa anche col pullman davanti alla porta. No, cioè ieri il Bayern ha fatto la partita che voleva l'Atletico Madrid, cioè, 80% di possesso palla, ma le 3 o 4 occasioni l'Atletico le ha avute. No, ma fra l'altro, insomma, se guardiamo la storia di questa Champions, è successo lo stesso anche con il Barcellona. Bravo. E devo dirti la verità, che io poi ne ho commentate tutte e due quelle col Barcellona, e francamente contro l'Atletico Madrid, fino a quando il Nino non ha fatto la follia di farsi cacciare, l'Atletico Madrid aveva giocato meglio ed era avanti 1-0 col Barcellona. Quindi, ma poi ci sono le 32-33 partite di campionato che te lo dimostrano che l'Atletico Madrid è all'altezza delle altre. 35 partite di campionato che te lo dimostrano e ti dicono chiaramente, ed è ancora più sorprendente secondo me, che sulla regolarità del campionato l'Atletico Madrid possa essere lì, perché sai, la Coppa può essere una partita che, no, può essere anche un po' di fortuna, può essere qualche episodio, cioè la Grecia ha vinto gli europei, con tutto il rispetto, vuol dire che sono competizioni più liquide, appunto più sfuggenti, ma che in campionato abbiano gli stessi punti del Barcellona e uno più del Real è incredibile. Io penso che questa analisi di Pardo sia precisissima, perché se noi analizziamo la Juve, la Roma, l'Inter e le altre, su 35 partite la differenza è 15, 18, 27, 40. Barcellona, Real e Atletico la differenza è 81, 81, 80, con 160 milioni di euro spesi in 5 anni con 600. Cosa significa? Che il valore dell'allenatore ha fatto la differenza. Certo. Ma Simeone sarebbe così anche fuori da quell'ambiente? Cioè sarebbe così vincente, così trascinante? Mi viene in mente, pensando ad esempio al Vicente Calderon, che è così 40 partite all'anno, spostandomi ad esempio su San Siro, dove magari hai le 3-4 partite con i 60.000, ma poi ti capita Inter Frosinone e ci vanno in 30.000 e sono un po' vero, così al primo passaggio sbagliato. No, non è vero, perché se l'Inter dovesse andare bene ci sta anche con Inter Frosinone, ci sarebbero 60.000 persone. Insomma, quando l'Inter ha fatto campionati all'altezza, che lottava per vincere, insomma c'era sempre 50-60.000 allo stadio. Insomma, secondo me non è vero, anzi la sensazione è che Simeone riesce a trasmettere il massimo quando ha un ambiente che crede fermamente nelle sue idee, che ha la capacità di dire, penso, presumo, che vendimi Diego Costa e prendimi, non so, Griezmann, ti faccio un esempio, sì, o prendimi cosa che per me non cambia nulla. È la capacità che poi vedi che durante il campionato questa differenza non la vedi, perché il valore, secondo me, dell'allenatore è quello che riesce a tirare il massimo e di più dei propri giocatori, dei giocatori che ha. E poi ne parlano tutti bene, insomma. Quello che stupisce è che non c'è nessun giocatore dell'Atletico Madrid negli anni, quindi ne ha allenati, insomma, in 5 anni, ne ha allenato tanti giocatori, non c'è nessun allenatore dell'Atletico Madrid che va via, che anche se non gioca parli male di Simeone. Quindi significa che questo allenatore ha qualcosa di particolare, è veramente bravo, secondo me. È riduttivo dire che è un difensivista, è riduttivo dire che è un allenatore che mette il puma davanti alla porta, perché veramente, secondo me, ha dimostrato in questi anni, con una crescita partita, secondo me, dal campionato italiano, ma non solo dall'allenatore del campionato italiano, secondo me anche giocando nel campionato italiano. Ieri lui ha fatto un passaggio al media importante. Io ho imparato da tutti i campionati qualcosa, ma secondo me, conoscendolo bene, essendo stato in camera insieme, parlandoci spesso, dal campionato italiano ha capito che in Italia, dove è fondamentale imparare a difendere, lui ha capito che nel calcio, soprattutto dove mancano i talenti, se tu difendi bene riesci a farla differenza. Beh, lui in questo momento è una sintesi della qualità estetica del calcio spagnolo, della qualità tattica del calcio italiano e della qualità agonistica del calcio argentino. Queste tre cose in una sola persona sicuramente portano un grande risultato. Io non lo so, tornando al discorso che faceva prima Giovanni, se un giocatore come questo, portato fuori, portato in un altro concetto di calcio, in un altro ambiente, farebbe le stesse cose. Però insomma potrebbe essere una scommessa molto stimolante, ammesso e a patto che lui voglia farla. Continua a strizzare l'occhio all'Inter in maniera anche molto precisa, devo dire che insomma c'è un famoso precedente, è quello di Ancelotti che diceva sempre sarebbe tornato alla Roma un giorno, ma secondo me Simeone è molto più diretto, cioè Simeone dice delle cose in maniera molto più particolareggiata e ha un'età diversa. Sì, beh, 10 anni fa Ancelotti magari aveva, però insomma sicuramente sì, mi sembra più concreto, ecco, aveva vinto, mi tanto. Sembra più concreta la promessa di Simeone nei confronti dell'Inter, anche perché se l'Inter tornasse ad avere in medio periodo un progetto vincente, potrebbe anche essere un avanzamento di carriera per Simeone. Quell'Ancelotti lì era già un Ancelotti che era arrivato sulle vette. Oggi lo dico senza che gli interisti si offendano. No, oggi dall'Atletico Madrid, insomma, in Italia non c'è nulla per migliorare. C'è forse la Juve per stare più o meno sullo stesso livello, poi tutte le altre sono scommesse romantiche. Però mi sembra perfetto per l'Inter. Mi sembra perfetto per l'Inter perché mi sembra che abbia le caratteristiche del migliore allenatore dell'Inter degli ultimi anni, che non me ne voglia Mancini, secondo me è Mourinho. Cioè cioè dell'allenatore che riesce, strizzando l'occhio all'ambiente nell'azzurro, a creare quel clima da noi contro tutti, tutto il mondo fuori, direbbe Vasco, che ha aiutato l'Inter. Guarda, gli interisti si sentivano questo messaggio e hanno tenuto grandissimi risultati. C'è un amico che ha scritto su WhatsApp: Giorgio, secondo voi con Simeone sulla panchina dell'Inter a quest'ora si stava assistendo alla stessa storia e con Mancini sulla panchina dell'Atletico? Detto che non c'è la controprova, no, Ciccio. Come si fa a dire? Non lo so, è difficile, però risponde a questo ascoltatore dicendo che chi segue Real Madrid ha visto un cambiamento anche da parte di Zidane dal punto di vista tattico. Insomma, è arrivato professando un calcio molto propositivo, molto champagne, come si dice in gergo, invece si è visto le ultime partite del Real Madrid. Casemiro, Casemiro è diventato Casemiro, l'uomo chiave. L'uomo chiave come Augusto Fernandez ieri, per dirsi, c'è questo centrocampista davanti alla difesa che è un giocatore più difensivo che propositivo. Quindi significa che Zidane, esperta del calcio, in una piazza dove Real Madrid è sempre abituato a giocare con due giocatori davanti alla difesa di grande qualità che erano Modric e Kroos, invece ha pensato che in una partita più importante della stagione fosse importante mettere un giocatore di temperamento. Quindi, insomma, anche se Zidane vince l'undecima gli andrà bene, altrimenti credo che Florentino Perez gli presenterà il conto, come è sempre stato con gli allenatori Real, del Real Madrid. Real adesso chi la vince la Champions? Dai, poi c'è la borsa, ti salutiamo. Chi vince anche secondo te, Pier? Ciccio? Secondo me se l'Atletico passa potrebbe essere l'anno dell'Atletico. Se dovesse superare il ritorno, che sicuramente è difficile, potrebbe essere l'anno dell'Atletico. Penso anch'io perché c'è una sensazione proprio di magia che apparentemente, insomma, mi sembra illumini questa squadra. Non è neanche la favola. Due anni fa l'Atletico Madrid ha vinto la Liga, è arrivato a un minuto da vincere la Champions. E l'anno scorso è uscita con un gol all'88esimo della partita di ritorno, 0-0, ha preso un gol del Cicerito a due dalla fine. Quindi la continuità di rendimento dell'Atletico Madrid è impressionante. Quello che c'ha di diverso rispetto a Barcellona e Real Madrid essenzialmente è solo il fatturato, che è un quarto. E chiaramente, se guardi i numeri della stagione, se guardi i numeri della Liga, il Real Madrid fa 104 gol, il Barcellona mi pare 102, loro 66, una roba così. 67, perché insomma c'è una differenza, ma è una differenza che poi alla fine però non si traduce nei punti, perché il Barcellona magari vince delle partite 8-0 che l'Atletico Madrid vince 2-0, che non sono calcio, ma l'Atletico Madrid le vince, roba, e io penso, tornando e chiudendo il discorso in 20 secondi, che noi siamo tutti, giustamente, ci spelliamo le mani per il calcio spagnolo che sta dominando, però in realtà per riuscire a competere senza essere il Barcellona o il Real Madrid devi far così, cioè l'equilibrio che l'Atletico Madrid è riuscito a trovare in una maniera così virtuosa è quello che gli consente di lottare a questi livelli. Senza quell'equilibrio l'Atletico Madrid non sarebbe nulla, secondo me. Grazie Ciccio. Ciao. Grazie a voi. Grazie Francesco. Ciao. Colonnese. Ciao. 800 24 00 24. Ci fermiamo, c'è la borsa, c'è già Alessandro da Ravenna, poi parliamo anche di Milan, eh? Bene, molto bene. Il Trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Si Ricomincia. Tutti convocati. Allora, ci ha raggiunto Marco Bellinazzo. Ciao Marco. Ciao, buon pomeriggio. Prima di parlare del Milan, Alessandro da Ravenna. Alessandro. Pronto? Eccoci. Sentite? Sì. Niente, io volevo iscrivermi al club dei difensivisti anch'io. Sì, diciamo così. Siamo in due. Sì, siamo in tre. Nel senso che abbiamo fatto questo colpo di stato, perché oggi non c'è qui Carlo Genta, no? Il teorico del pullman davanti alla porta. Ma siccome non c'è lui, abbiamo preso possesso di questo studio, noi difensivisti, sostenitori del Ciolo e altro. Ma io non sono difensivista, prego. Però mi piace È così, è così. Insomma, abbiamo fatto il colpo di stato. Alessandro, prego. No, ma il discorso è che, per esempio, noi nel fare tutti questi ragionamenti ci dimentichiamo sempre delle nostre tradizioni, che sono sempre state tradizioni di squadre molto attente in fase difensiva, molto organizzate, molto equilibrate. E secondo me andare contro la storia di un proprio paese, anche nel calcio, è sempre una cosa sbagliata, pur senza aprirsi alle innovazioni, che quelle chiaramente passano con gli anni. Ma è molto semplice dire che un allenatore deve farla giocare la squadra in base ai giocatori che ha e all'avversario che incontra. Quindi parlare di difensivismo o offensivismo, cioè tutti a parole siamo offensivisti, no? Però poi la cosa si deve scontrare con la pratica. sono gli avversari, le qualità dei tuoi giocatori, tutta una serie di cose. Quindi, voglio dire, noi purtroppo in Italia abbiamo questa tendenza a rincorrere le mode all'estero, ma dovremmo partire prima di tutto da quelle che è la nostra storia del calcio, cioè da quelle che sono sempre state le nostre qualità peculiari, che sono state quelle di essere una squadra molto attente, molto organizzata in fase difensiva, con grande qualità, che non vuol dire non saper giocare con la palla, anzi, perché anche fare il contropiede bene è un'arte. No, ma poi se tu per 10 volte contro Guardiola, contro il Barcellona di Luis Enrique, contro il Real Madrid, fai sempre la stessa partita e molto spesso ti va bene, vuol dire che non sei in balia dell'avversario, è il contrario. No, no, ma guarda, fai tu la partita tatticamente come hai scelto di fare. Essenzialmente la forza di Simeone è aver anestetizzato la distanza di fatturato. Abbiamo Bellinazzo che è l'esperto massimo dei 187 l'Atletico Madrid milioni contro 600. Sì, guarda, io ho fatto un piccolo lavoro l'altro giorno perché mi interessava molto capire questa cosa. Qualche anno fa avevo fatto un lavoro simile per capire quanto serviva per portare una squadra almeno in semifinale di Champions, no? Quanto costava la rosa, e 5-6 anni fa più o meno era sui 110 milioni, 120 milioni. Ora siamo a oltre 200 milioni di media. Cioè, se vai a guardare le squadre che hanno raggiunto la semifinale negli ultimi 5 anni, sono 8. Real e Barcellona sono andate sempre. Real e Bayern Monaco. Il Barcellona 3 volte, il Chelsea 2 volte, poi una volta la Juventus, una volta il Borussia Dortmund, il City quest'anno. E c'è un intruso, l'Atletico Madrid, appunto, che è andato 2 volte nelle semifinali, una volta ha raggiunto la finale, vediamo com'è. Ed è l'unica squadra che sostanzialmente che è sotto questa, che abbassa la media. E quindi lì vuol dire che effettivamente, anche quindi a distanza di tempo con diversi giocatori, allora lì vuol dire che è la mano dell'allenatore, no, guarda, insomma, che può annullare oggi, certe oggi capisco che poi diventa un peana, insomma, una roba. Però l'Atletico Madrid non ha fatto un errore negli ultimi anni. Ha venduto a grandi cifre e ricomprato sempre bene. Ha utilizzato, cosa sapete a me molto cara, anche se ormai lavoro per una TV che ha la Champions, non ha più l'Europa League, però continuo a seguirla, ovviamente, l'Europa League. È chiaro che è una competizione minore, è ovvio, però l'Atletico Madrid è una squadra che attraverso l'Europa League è riuscita a sfruttare questa occasione ed è diventato uno strumento anche per andare avanti in Champions. Quindi le italiane dovrebbero prendere esempio da questo punto di vista, poi magari non ci riescono, ma dovrebbero impegnarsi. L'Atletico Madrid è un esempio proprio di quando Simeone è arrivato in una situazione complicatissima della squadra, il primo anno, e già attraverso l'Europa League ha fatto il primo salto carpiato, triplo, passo per volta. In questi 5 anni il fatturato è cresciuto da 100 a 175 milioni l'Atletico Madrid, modello Leicester, modello Atletico Madrid, modello per le squadre italiane. E crescerà ancora se davvero gli spagnoli cominceranno a dividere i diritti TV, non semplicemente pagando Barcellona e Real Madrid. Eugenio dalla provincia di Catanzaro, Eugenio, dai che poi parliamo. Buongiorno, grazie per essere stato convocato. Grazie. Tre cose veloci. La prima, complimenti per la trasmissione, è difficile proprio in Italia trovare professionisti che lavorano con passione come voi. Grazie. Secondo, estendiamo anche al teorico del pullman, non c'è problema. Professor Genta. Secondo, il giudizio di Mughini sul telecronista dottor Pardo ha perfettamente ragione. È il migliore telecronista che si trova lei mi sa che è un mio parente, comincio a pensare perché vabbè, comunque grazie. Eugenio al terzo Eugenio complimento Paolo. Basta adesso. Sì. No. Grazie. Hai altro, Eugenio? Farvi una domanda. Sì. Cioè, se il Milan deve essere, forse sarà venduto per circa 800 milioni, sì, secondo voi che valore avrebbe l'Inter e la Juventus allo stato attuale? Adesso ti rispondiamo, facciamo così, parliamo di Milan, dai. Il mondo del calcio è cambiato. Nel mondo del calcio sono entrati i petrodollari. Il Qatar versa ogni anno nelle casse del Paris Saint-Germain 250 milioni di euro. Una famiglia sola non può metterci in concorrenza con queste disponibilità finanziarie. Che cosa sto cercando? Qualcuno che sia disposto a condividere con me i finanziamenti futuri per il mio Milan. La firma è solo una formalità? Credo di sì a questo punto, perché Mr. B si sta comportando con molta serietà. Devo dire che mi piace molto anche come persona e quindi è un partner molto gradito con cui penso si potrà fare un ottimo lavoro per il Milan. Ho avuto un incontro con Mr. B e la cosa continua, con naturalmente molte cose da mettere a punto anche per la commercializzazione del marchio fuori dall'Italia, e quindi io penso che questa cosa si concretizzi presto e sarà una bella cosa per il Milan. Quanto vale il Milan? Quanto vale l'Inter? Quanto vale la Juventus? Questo è un riassunto delle puntate precedenti, alcune, perché è da 15 mesi che stiamo ragionando su quanto vale il Milan. A parte, mi è una domanda sbagliata, ma la domanda è quanto qualcuno è disposto a pagare per... Quella è la domanda. Quindi si possono utilizzare tutti i parametri di contabilità, andare nelle facoltà di economia, insomma, e ci si può sbizzarrire per calcolare il valore dei club di calcio. Vero problema è trovare qualcuno che sia disposto a pagare determinate cifre. Parliamo di Milan. Milan l'ha trovato o no? Perché allora, oggi c'è da un po' da perdere la testa a leggere i giornali, mettere insieme tutte le informazioni. Chi dice che Berlusconi ha deciso, chi dice che Berlusconi è ancora non è proprio convinto dell'idea di cedere la maggioranza. Allora, io ho aggiornato, insomma, il mio blog stamattina indicando quello che a mio avviso, insomma, è un passo avanti importante riscontrato dalle parti, e cioè che è stato raggiunto un accordo di massima tra la Fininvest e i consulenti del consorzio cinese che vuole acquistare l'Inter. Questo accordo chiaramente non è avvenuto senza che Berlusconi conoscesse gli aspetti fondamentali, ma è chiaro che ora deve essere sottoposto alla sua valutazione, nel senso che Berlusconi deve prendere un impegno formale con il consorzio e quindi concedere una trattativa in esclusiva, che poi è quella viatico che dovrebbe portare alla chiusura entro la fine dell'estate, che è quello che vogliono di fatto i compratori. Le basi di questo accordo, lo riassumiamo, quali sarebbero? Innanzitutto una cessione di un pacchetto di maggioranza, quindi tra il 60 e il 70%, a una cifra che è pari a 500 milioni più l'accolo dei debiti, quindi parliamo di circa 200 milioni. Oltre a questo, ci sarebbe in una seconda fase l'impegno che si dovrebbero assumere i nuovi proprietari, i nuovi azionisti di maggioranza, di rilevare nel giro di 2-3 anni, e quindi di investire nel giro di 2-3 anni, altri 200-300 milioni per acquisire il pacchetto finale. Quindi torniamo al famoso 30%, al famoso miliardo. Una di valutazione euro, che non è molto distante, insomma, da quella... Certo. Di Mr. B, insomma, comunque c'erano i debiti da capire poi chi si accollava cosa. In questo caso, insomma, andiamo verso il miliardo con una tempistica, insomma, che a questo punto dipende da Silvio Berlusconi, e ricordiamo appunto che c'è un'assemblea tra poche ore che dovrà certificare due cose: il Milan ha perso altri 90 milioni, Fininvest ci ha messo dentro solo nel 2015 150 milioni, altri 10 milioni a marzo, ha aperto una linea di credito di 70 milioni, quindi un impegno finanziario di 230 milioni, effettivamente, insomma, non più sostenibile da una sola famiglia. Non è una società che così può andare avanti, ma nemmeno una il discorso di Berlusconi che abbiamo sentito nella clip è giusto. Sì, cioè, il problema è che era di un anno fa, la realtà è quella. No, però mi sono curioso sulle quotazioni teoriche, facciamo un po' di fanta borsa. Dacci i prezzi delle prime 5 squadre d'Italia. Con dai, cosa si porta via l'Inter? Allora, il Milan, Juventus, abbiamo detto, dai, che Milan, partiamo dal Milan. Miliardo. Se qualcuno, in questi casi si fa un miliardo, un benchmark, e quindi il Milan vale un miliardo. Ok. La Juve? Beh, la Juve diciamo che potrebbe... Partiamo dal fatturato. L'Inter, Milan oggi produce 200 milioni, la Juve ne produce oltre 300. Ha un brand, ha uno stadio di proprietà enorme, ha un brand forse meno forte all'estero, forse assolutamente sì, ancora però meno forte, proprietà, però lo stadio di proprietà, e però comunque è forte, cioè è meno forte del Milan se guardiamo i trionfi, in termini relativi commerciali. Uno e mezzo, lo portiamo via uno e mezzo, no, cioè, credo, no, qualcosina anche di più, anche di più. Ah, sì? Qualcosina anche di più, insomma, considerando tutti gli aspetti. L'Inter mi spiace dirlo, molto meno. C'è un problema all'Inter che riguarda effettivamente una situazione, diciamo, di prospettiva, no? Nel senso che, essendo entrato già un nuovo socio, che non è riuscito a portare avanti un progetto vincente in pochi anni, così come si proponeva di fare, è chiaro che l'appeal del club è diminuito. Il Milan ha il fatto di... Il Milan vale il doppio dell'Inter? Il Milan... A vederla da qui, da gente della strada come noi, fa ridere questa cosa, con tutto rispetto per il Milan. Però partiamo dal fatto, Pierre, che 3 anni fa l'Inter è stato comprato più o meno a 70% a 250 milioni. C'è un altro 30, quindi valeva il 30% sui 3,50. Oggi non vale di più. Oggi non potrebbe valere di più, secondo me. Ma ripeto, qui è una questione di prezzi che fa il mercato. Però se si apre un mercato come quello cinese, dove veramente c'è la volontà di investire, magari in questa finestra spazio-temporale puoi anche spuntare un prezzo maggiore. Ci dobbiamo fermare perché c'è traffico. Siamo anche in ritardo. 800 24 00 24. C'è chi ci chiede che fine ha fatto Alibaba, c'è chi dice che Berlusconi sta facendo il furbo, vuole solo trovare i soldi per coprire i budget, insomma, ci sono tanti che scrivono sul Milan. Traffico, torniamo, ne parliamo. Tutti convocati. Tutti convocati. Milan? Non è. Io non sono niente, non mi occupo di Milan se non da tifoso. Chiediamo a Rona, ti piacerebbe avere come socio un imprenditore del calibro di Jack Ma di Alibaba? Ma dove? Nel Milan. Nel Milan o da altre? No, nel Milan. Nel Milan io tutto quello che va bene al Milan, però. Oh. Mi dai pure Napoli e Roma, dai, Napoli sì, e Roma. Anche la Lazio, c'è chi dice noi poveri laziali ci venderemo anche per un pacchetto di noccioline, per vedere più Lotito. Beh, anche un po' di più, dai. Beh, se abbiamo fatto questa scaletta, direi che il Napoli potrebbe valere sui 200 milioni, qualcosa in meno magari. La Roma più o meno su quella cifra, diciamo la forchetta verso i 250. Cioè la Roma vale più del Napoli? Oggi? Sì, perché la Roma, insomma, il brand Roma in quanto tale. Napoli ha una quantità di tifosi nel mondo che no, il problema potrebbe fare delle robe. Il problema è che noi abbiamo un approccio per cui pensiamo a chi siamo e la provenienza geografica. Quando vai sui mercati stranieri, contano due cose: cioè qual è il tuo futuro, quali prospettive offri e quale identità offri. Roma, al di là di tutto, ha un'identità molto precisa, così come ce l'ha Milan. Rispetto all'Inter, anche se l'Inter è una squadra di Milano, sembreranno cose sciocche, ma di fatto... Cioè conviene esperti, in grandi città storiche avere il nome della città? Conviene per esempio Venezia. Venezia è un brand che tira di più nel calcio asiatico rispetto, non so, ad Atalanta. Beh, perché si fa più difficoltà ovvio, identificare. E ovviamente se parli con agenzie di marketing in cui conta la massa... Quindi tu consiglieresti a Della Valle di cambiare il nome in Firenze? Beh, un esperto di marketing folle glielo potrebbe suggerire, però non sarebbe così folle. Ci sarebbe addirittura Florence, o addirittura Florence, per rendere. Tu ricordi la Florence Milan 0-0 al 12esimo? Attenzione al Florence che prova a riparare. Guarda, che è una bella idea. Se pensi che in alcuni club, per esempio, il malese Vincentana al Cardiff ha fatto tutto un tentativo di cambiare nome, colori, proprio per la riconoscibilità anche in Asia, i tifosi sono libellati. Per esempio facciamo una squadra in Costa Smeralda. Beh, tu ricordi no, le polemiche, avrebbe senso. Pier, tu ricordi le polemiche con Pallotta quando cambiò il simbolo togliendo AS e lasciando Roma, sì, e la logica però, era proprio questa, era però l'idea posso dirti, queste, che in giro per il mondo era conosciuta a Roma. Queste polemiche qui ci sono state all'Arsenal quando è stato girato il verso del cannone nel nuovo logo, ci sono state al Manchester United, sappiamo il periodo della protesta contro Glazer con i tifosi che si vestivano di giallo-verde per rivendicare le origini del club. Quindi insomma il calcio, lo sappiamo, vive sempre in un equilibrio abbastanza sottile fra tradizione e innovazione, no? Quindi fra rispetto da un lato della storia di un club e necessità di essere moderni, perché questo gli dà la possibilità di raccogliere soldi e di vincere. Mi ricordo, a proposito, parlavi della Lazio, la Lazio di Cragnotti, che pure era una squadra che vinceva, però mi ricordo che c'erano polemiche, no, sulla famosa definizione di consumatore, no, del tifoso della Lazio, sui pacchetti delle trasferte che venivano appaltati, per cui vi dovevi per forza prendere tutto il pacchetto e spendere un sacco di soldi. E quindi è chiaro che questo è difficile, è un equilibrio difficile da riuscire a trovare. Poi le vittorie sono la medicina migliore. Poi alla fine, quando vinci, quasi sempre il consenso lo trovi. Comunque, tornando al Milan, tanto alla fine decide Berlusconi, sì, e al momento non ha ancora, allora, ricordiamo, scelto gli di cedere la maggioranza. Questo dossier, cessione intorno al 70%, per 500 milioni più 200 milioni di debiti. Seconda fase, stiamo ripetendo per chi si fosse messo, sì, all'ascolto in questo momento, seconda fase con acquisto del quoti restanti con investimenti da 200-300 milioni. Questa è la base di un accordo tecnico, non so come chiamarlo, per evitare, non ci sono firme, non c'è nulla, però c'è un accordo tecnico. Il problema, come finora è sempre stato in casa Fininvest, è che c'è la proprietà che ovviamente fa delle scelte economico-finanziarie, e queste sono, e c'è ovviamente però un patron, Silvio Berlusconi, che ha reso il Milan la squadra più vincente al mondo, con più titoli al mondo, che è legato in maniera passionale a questo giocattolo costosissimo al quale spetta l'ultima parola. Fininvest ha chiesto per esempio di conoscere meglio qual è l'assetto del consorzio cinese, e quindi per evitare poi che questi grandi nomi continuino a circolare, ma non c'è né certezza su nessuno di loro, ma ovviamente Fininvest, prima di sedersi a un tavolo, vuole conoscere nell'interezza il consorzio. Berlusconi vuole per esempio la certezza di poter rinunciare fino all'ultimo momento, ne parlavamo prima, senza penali o comunque senza rimetterci niente, quindi vedremo se i cinesi saranno d'accordo su questa impostazione. È evidente che Berlusconi sa di dover vendere, non si è ancora deciso a vendere. Allora, sì, ha capito, poi oggi, ripeto, fra un paio d'ore presentano i conti e probabilmente si rafforzerà in questa idea. Abbiamo un minuto, c'è Damiano da Salerno, lo facciamo, poi Belinazzo resta qui, non scappa, sì, perché sì, c'è chi ci chiede quanto costa la Fiorentina, se ci sono notizie sul Bari, notizie sul Napoli, ma aspetta, dopo c'è chi mi chiede se vale di più il Sassuolo o l'Udinese, è un grande brand. Damiano da Salerno. È divertente il giochino, sì. Damiano? Sì, eccoci, ci sono. Dai. Salve, complimenti per la trasmissione innanzitutto e grazie per essere stato convocato. Volevo un attimo intervenire a proposito della dichiarazione di Berlusconi, dove diciamo che solitamente a livello politico non sono molto d'accordo su quello che dice e quello che fa. Da questo punto di vista sono diciamo d'accordo, ma sempre fino ad un certo punto, nel senso che nel calcio cominciamo a ragionare in questi termini: ci sono delle squadre che possono permettersi delle cifre per allestire una squadra competitiva, ma ci sono tante squadre che purtroppo queste possibilità non ce l'hanno. Allora, se Lubi Major, minor Cessat, non mi sembra una cosa molto, diciamo, come posso dire, in termini calcistici democratica, ecco, sì, fatta democraticamente. Poi arriva Simeone con le sue poche risorse. Un attimo solo che concludo. Sì. Io direi che sia arrivato il momento in cui nel calcio bisogna mettere dei tetti, dei massimali, dove tutte le squadre non possono, non devono superare una certa somma per acquistare i calciatori. Guarda, Damiano, tu avresti anche ragione, il problema è che si sta andando esattamente al contrario, al di là del fair play finanziario. Però torniamo, dopo il GR delle 15, ci sono notizie di cessione dell'Hellas Verona, ad esempio il Toro quanto vale? Guarda, dopo andiamo avanti questo giochino, GR. Finisce qua, senza recupero il primo tempo, gran spettacolo. Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10 e mezza, con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Convocati. Allora, adesso vediamo le quotazioni di tutto. Ci siamo, Fiorentina, Verona, Lazio, Udinese, Sassuolo, chi costa di più, chi costa di meno. Prima Massimiliano da Livorno. Il Ponza, Massimiliano da Livorno. Massimiliano. Salve. Prego. Buon pomeriggio, grazie per la convocazione. Assomiglia ad Allegri, Sì, questo gran parlare di denaro secondo me sposta un po' il focus sul management, nel senso che si parla di costi e di investimenti, ma visto l'Atletico degli ultimi anni, lo stesso Leicester, mi sembra che in realtà il problema sia il management e non la quantità di denaro investito. Cioè, c'è realmente bisogno dei cinesi o di competenze? Questa è una domanda che vi giro. Belinazzo, prego. Molto, molto interessante. Io credo che I soldi siano fondamentali, ma quello che è mancato in questi anni nel calcio italiano è un investimento sul management, cioè qualche giocatore in meno e qualche manager specializzato in più sarebbe stato importante e sarà importante nei prossimi anni. Chi viene con una cultura di tipo aziendale e ha un approccio industriale al calcio può far bene. Il Leicester è un esempio, siamo tutti innamorati della squadra di Ranieri, insomma la stiamo spingendo anche dall'Italia per il successo, ma è immersa in un sistema in cui il calcio è un prodotto industriale e il Leicester sta già diventando un brand sui mercati orientali più di quanto possano valere oggi alcuni club italiani o spagnoli o francesi. Sì, noi di quel sistema vogliamo copiare la divisione dei diritti TV adesso con la riforma che forse arriverà da parte del governo. Io dico, se poi quei soldi che lascia le medio piccole qualcuno li investisse magari, ma se finisce come è successo con la legge Melandri, diritti collettivi, che nella stessa estate l'Udinese ha venduto tutti per poi uscire dal preliminare, allora tanto vale dare i soldi all'Inter, al Milan, alla Juve, alla Roma, al Napoli, cioè, a chi fa calcio investendo. È chiaro che a proposito di questa ipotesi di riforma, insomma, l'aspetto che più colpisce è il fatto che la parte di diritti da dividere in parti uguali non sarebbe più al 40 come adesso, ma al 50. Al 50 è la quota, la percentuale con cui si dividono i diritti in Inghilterra, in Bundesliga, però lì si fa un discorso diverso, cioè non tanto dividere la torta, e non si litiga tanto su come dividere la torta, ma si discute su come allargare la torta, cioè guadagnare di più per avere più soldi. Qui il problema è che la torta si sta restringendo e si discute sulle percentuali. È chiaro che fare questo tipo di divisione del 50%, puntare non tanto sul bacino d'utenza del seguito che è una squadra, ma soltanto sul bacino d'utenza territoriale, significa danneggiare per esempio la Juventus. È oggettivo questo fatto. E ora non tocca a me difendere la Juventus, ma al momento è l'unica squadra italiana che può permetterci di andare avanti in Europa, ottenere dei punti, perché se noi non riconquistiamo quel quarto posto, maledetto quarto posto, benedetto, è chiaro che non riusciremo mai a sovvertire il declino verso cui stiamo andando, in cui siamo immersi. Quindi va bene una riforma in senso democratico, ma attenzione a non spostare troppo gli equilibri, a non danneggiare per quelle squadre che devono competere a livello internazionale. Anche perché in Inghilterra La forbice è più piccola, ma è più piccola con la quantità di soldi che hanno. Quindi la forbice è più piccola, ma consente comunque ai grandissimi club di essere competitivi. Beh, c'è questo. In Italia la torta è di 1,2 miliardi. Il prossimo contratto di diritti TV varrà quasi 4 miliardi all'anno, cioè tre volte di più. La Spagna ci ha appena superato, la Bundesliga l'anno prossimo discuterà il prossimo contratto e molto probabilmente passerà dagli attuali 800 milioni a 1 miliardo, 1,2 miliardi. Detto questo, il problema mi sembra che sia soprattutto il resto, no? Cioè, l'idea che fino a pochi mesi fa eravamo il secondo paese al mondo per i diritti TV mi sembra quasi clamoroso, nonostante insomma stia accadendo di tutto sui diritti TV, comunque è stato un successo. I soldi. Allora dai, qualche domanda da casa 349-238-6666, se ci sono novità sul Bari. Beh, Nordin ha promesso la Champions in 5 anni. Quanto vale il Bari? Il Bari al momento lo sta comprando con una ventina di milioni, cioè sarebbero 10 milioni, poco meno di 10 milioni per il 50% delle quote di Paparesta. È chiaro che farebbe l'affare della sua vita, perché prendendo con 20 milioni, mettiamo, perché l'idea era quello poi di passare a acquistare anche le restanti quote, con 20 milioni compri una squadra che se va in A l'anno dopo solo di diritti TV porta a casa 30-35 milioni. Quindi sarebbe ottimo. Il problema di Nordin è che uno non è molto ben chiaro quello che è, diciamo, l'universo, la galassia delle sue aziende, delle sue attività. E poi ci sarebbe insomma un bonifico, delle garanzie che devono arrivare, che non sono ancora state versate. E poi sulla Samp c'è anche chi ci chiede se può avere appeal internazionale. Beh, è un anno che noi parliamo di Ferrero, che può più o meno cedere la Samp. È una società storica, c'era, no? È nella borghesia del calcio europeo. È una di quelle squadre, sì, che ha un blasone, ma ripeto, quello è il passato. Il problema è lanciare un messaggio al futuro, un'identità di squadra, e effettivamente è più semplice riconoscere Genoa che Samp. D'altro canto, la Samp insomma ha grande appeal, c'è stato questo interessamento di Volpi per lungo tempo, la cosa poi si è un po' fermata, vediamo insomma quelli che sono gli sviluppi. Sì, Claudio da Mantova. Claudio, sì, buongiorno. Eccoci. A tutti. Buongiorno. No, niente, io volevo solo che mi faceste un attimo di chiarezza, perché non più di un anno fa, da quei microfoni, avete valutato il Bayern di Monaco come una squadra che costava di più e costava 1.400 milioni. Volevo capire come mai adesso la Juventus vale più del Bayern di Monaco. Sparare ragionavamo in ipotesi, No, ma non è questione di sparare a caso, a parte che come spiegava Belinazzo prima, ma come è anche intuitivo, il prezzo lo fa il mercato. Se tu trovi qualcuno disponibile a pagare 1 miliardo il Milan, facciamo questa ipotesi, perché poi alla fine anche oggi si ragiona intorno a quella cifra, significa che c'è un interesse in questo momento, finestra temporale, primavera, estate 2016, di un certo mercato cinese verso il calcio italiano, e allora magari spunti anche qualcosa in più, magari fra un anno, due anni in meno. La valutazione del Bayern nasceva dal fatto che Allianz, che era in quel momento sponsor e aveva i naming rights dello stadio, ha acquistato per l'8,3% per una somma intorno ai 115 milioni, se non ricordo male. Da lì nasceva la proiezione. È chiaro che parliamo di una situazione in cui chi oggi andasse per ipotesi, cosa che non si può fare perché in Bundesliga sono regole diverse, non si possono comprare le squadre, ma nel momento in cui si andasse a comprare la maggioranza del Bayern Monaco ci vorrebbero, come dire, altro che 1 miliardo, perché è una squadra che produce utili da 10 anni. Sì, ci vorrebbe di più. Parliamo di Napoli, dai. Ma vi dovete vergognare quando con questo accento parlate di voi napoletani. Tu c'hai l'accento napoletano, tu c'hai l'accento napoletano, tu sei napoletano e tifi per una squadra che ruba, ti devi vergognare. La Juve c'ha dei giocatori fenomenali dentro della federazione italiana e dentro dell'arbitraggio italiano. Non è nuovo, Gianni. Non è nuovo, hanno dei giocatori fantastici dentro della federazione. Qualsiasi problema haya in campo, il giocatore della Juve ha ragione. Ma non dire stupidaggini, ma se hai coraggio vieni qua che ti denuncio per quello che hai detto. Infatti, lasciami il nome, se tu dici che io ho preso mai un euro da De Laurentiis lo devi dimostrare, lascia il tuo numero che ti denuncio. 14 punti. È quello che diceva allora sono gli arbitri, sono i complotti. No, spiega, sono gli arbitri, sono i complotti. Non che hai cosa giocatori, succede? Non ce la fanno allora più. Questo è il problema. No, non ce però, la fanno. Però, scusa, ok, aspetta, allora, se io Enrico, non ce la faccio tu con dici 4, Sarri, 3, lui dice i calciatori. Cambiare. Se io faccio giocare sempre gli stessi. Non ci vogliono i criticoni, non ci vogliono i professori del piffero. È inutile che qua stiamo ad analizzare il perché di questa sconfitta. E la colpa è di Caio, la colpa è di Tizia, la colpa è di Sembronio, la colpa è del presidente, la colpa è di Sarri, la colpa è di... Oh, tutto chiaro, no? Allora, questo è il blob di cosa sta succedendo TV Radio Napoletana in questi giorni, in cui insomma si vive la paura di perdere anche il secondo posto. Antonio Giordano, Corriere dello Sport, ciao. Io l'unica paura che ho è di perderti, perché sono nella zona in cui la linea va in piedi. No, ma mi sembra che le idee siano chiare, no? L'avevo sentito dal blob. È tutto chiarissimo. Tutto chiarissimo, no? Cosa succede? Tutto, è l'esatto contrario. Ora c'è uno stato d'agitazione collettiva, di fibrillazione, che porta a temere che insomma possa vanificare un anno intero. Insomma, però si dimentica che il Napoli ha 2 punti di vantaggio sulla Roma, e semmai la fibrillazione deve essere per gli altri, in termini squisitamente aritmetici parlo. E poi è anche vero che il calendario insomma è infido, perché la trasferta di Torino è più pericolosa delle due gare interne con Atalanta e Frosinone, ma neanche la Roma se la passa bene. Ma quindi sarà un campionato avvincente fino alla fine per il secondo posto, per il primo la Juve ci ha abituati. Ma c'è qualche fibrillazione, visto che parlavi di fibrillazione, anche intorno a Sarri? No, normale, tutto regolare, niente di straordinario. Insomma, c'è una situazione che è credo sotto controllo, rientra nella normalità di un rapporto, delle tensioni che appartengono alla vita quotidiana di una società di calcio, ma nulla che induca a sospettare in questo momento. Poi domani non lo so. Sì, però De Laurentiis ha detto che tutte le ipotesi sul futuro di Sarri, che non siano la conferma automatica, sono cazzeggio. Siamo al 28 aprile, E però quella parolina lì non è ancora stata scritta. Allora, noi abbiamo fatto il processo ad Allegri, che non ha ancora firmato il rinnovo, e da settimane viene annunciato, adesso forse ci siamo, la volta buona, ha vinto lo scudetto. Possiamo dire che non è tutto coerente nemmeno a Napoli, forse? È perfettamente coerente al De Laurentiis del passato, cioè vi ricorderete la vicenda di Benitez, no? Di 2 anni fa, che era legato anche lui ad un diritto d'opzione concesso al Napoli, e quando ci accapigliavamo su una notizia aspettando, ci accapigliavamo probabilmente sul nulla, perché poi De Laurentiis confermò Benitez sempre nelle modalità che gli venivano riconosciute dal contratto. Ma De Laurentiis è questo, io oramai seguo il Napoli da troppi anni, ahimè, e ho anche fatto i capelli bianchi, e quindi ho vissuto l'era De Laurentiis. La scadenza della clausola è il 31 maggio, lui non ha fretta. Deciderà il 30 sera. No, noi ne avremmo un po' di più. E quindi da che dipende? Ma credo che fondamentalmente dipenda dalla situazione, che non vuole alterare gli equilibri e anche le emozioni e anche la tensione intorno alla squadra. Il campionato finisce il 15 maggio, dal 16 in poi va bene tutto. Sarà, credo, anche più giusto, più equo parlare alla luce dei risultati raggiunti. Ma non rischia il contrario, scusami Antonio, cioè di lasciare comunque aperta la sensazione che ci sia ancora un bilancio da tirare, che ci sia una valutazione da fare, che magari davvero, come oggi scrive qualcuno, la Gazzetta, non il tuo giornale, non tu, però insomma è comunque un collega autorevole, scrive attenzione perché a De Laurentiis non è piaciuta la gestione di Sarri da un certo punto in poi, anche dal punto di vista mediatico, comunicativo, della ricerca sarebbe degli alibi. Sarebbe politicamente corretto se io mi esprimessi sulle cose di un giornale direttamente concorrente. No, però ad esempio il fatto che De Laurentiis sia stato zitto nel momento decisivo della stagione del Napoli, in cui si è consumata la sconfitta di Udine, il tormentone Higuaín e tutto, questo è un dato oggettivo. Sì, come oggettivo che anche l'anno scorso il Napoli, dopo la sconfitta interna in Coppa Italia con la Lazio, fece il silenzio stampa che si preparasse fino alla fine del campionato. Quindi sì, tutto regolare. Ti ho accontentato? Sì. Cioè, perché mi vuoi tirare per i capelli dentro una vicenda che io non c'entro niente? Però sì. Sei simpaticamente canaglia. C'ha ragione. Lascia il numero che ti denuncio. Salvate il soldato. Ecco, mi racconti a proposito di lascia il numero e ti denuncio un po' il clima in città, nel senso che... Ma sento una voce amica, ragazzi. Certo, io sono sempre qua. Pardone. Come stai, amico? Tutto bene? Pardo numero uno. Dai, che sta per arrivare l'estate. Mancano 3 puntate, 4 partite. Abbiamo fatto, anzi, 3 partite mancano. Quante mancano? Tre partite. È fatta. Cioè, io già vedo i bagni della regina Giovanna, già vedo Ponzi. Vabbè. Comunque, mi racconti un po' il clima in città. Anche perché poi la partita con la Roma, diciamolo, è stata chiaramente negativa dal punto di vista del risultato. Però Napoli ha dimostrato di essere, non meritava di perdere, anzi nel secondo tempo ha dato anche la sensazione fuori casa, secondo me, di avere anche qualcosa in più della Roma. Però poi il risultato fa opinione, no? A me è sembrata la partita più beffarda dell'anno, assoluto, ancora più di Torino, dove perlomeno a un certo punto c'erano 2 letture diverse di gioco, però un equilibrio che si poteva più o meno cogliere. Qui c'è stato un momento in cui il Napoli nel secondo tempo era troppo più squadra rispetto alla Roma, per possesso palla, per padronanza del campo, per capacità di occuparla, e nessuno aveva la percezione che il Napoli potesse perdere. Fino a quando però non è entrato Totti, devo dire la verità, perché poi lì si è spostata la magia ed è diventato altro. E quindi dinanzi a un fenomeno di questo genere, che è in grado di alterare... Mi diventi persino... esoterico su Totti, cioè anche, sì, tu, no. Anche tu sei dell'idea, eri sul posto, credo, no? Sì, io quando ho visto Totti scaldarsi ho avvertito, come dire, un turbamento, ecco. Quando l'ho visto entrare, è uno stadio che fino a quel momento taceva assolutamente, partecipe distante dall'avvenimento, scaldarsi. Abbiamo afferrato che qualcosa stava mutando. Poi è chiaro che dirlo a posteriori sembra aver scoperto la classica acqua calda, però lì sul campo qualche cosa si è colto. E devo dire che l'ha colto anche la squadra, e non è un caso che la Roma la colga sempre quando arrivi Totti. Ha dato adatto a Spalletti. Sì, l'ha capito anche lui. L'ha capito anche lui. Però l'ha capito anche lui. Probabilmente ha capito persino i tempi in cui le dice. Sì. E Totti è meravigliosamente bello nelle cose che fa, anche da fermo. Detto ciò, io credo che il Napoli resti nettamente in vantaggio. Però deve fare 9 punti. A me sembra che abbia un calendario migliore. Cioè, io capisco che uno possa avere delle preoccupazioni sulla trasferta di Torino col Toro, ma se ce l'ha, allora pure la Roma-Genova. C'è anche Genova-Roma. Cioè, Nel senso che la Roma, c'è anche Milan, Roma. La Roma a Milano, l'ultima giornata è la partita più complicata, sicuramente. E mi permetto anche di dire che il Chievo non sta regalando niente a nessuno, per cui poi alla fine anche Roma-Chievo non è una partita che ti porti da casa. A me sembra che il Napoli sia in netto vantaggio, proprio in nettissimo vantaggio. E devo dire che anche la condizione atletica, mentale, tecnica delle due squadre mi sembra che il Napoli sia un po' avanti, ecco. Però è giusto che si preoccupino tutti, da De Laurentiis in giù, anche perché insomma noi parliamo con la tasca degli altri, ma sono 20 milioni che ballano così, pronti via, eh. Sì, balla credo soprattutto la possibilità di progettare adesso l'estate, oppure sì, di fare quello che fece De Laurentiis quando poi si schiantò nel preliminare contro l'Athletic Bilbao. Cioè, di aspettare la fine di agosto. Se va al preliminare, il rischio è quello, che il tuo mercato possa fermarsi, per capire quello che sia il tuo futuro. Poi abbiamo già vissuto, insomma, abbiamo il precedente. Un'esperienza, ma tra l'altro credo che siano molti di più i soldi, almeno il doppio, e tra l'altro se andiamo a guardare chi è al quarto posto per esempio in Inghilterra, chi si potrebbe incontrare, insomma, vengono i brividi, e sono due anni insomma che le squadre italiane falliscono il terzo posto, insomma il preliminare. Anche perché credo che sia Napoli che Roma ci entreranno non da teste di serie. No, e io credo questo, di sì. Questo non sarà certamente agevole. Non sicuro, perché è impossibile finché non è tutto definito. Il però... Napoli era testa di serie con la Napoli Bilbao, è testa di serie. Napoli è testa di serie. Napoli... Roma che non è testa di serie. No, ma secondo me allora anche conviene la Roma. Che ci vada al Napoli al preliminare. Secondo così me anche la Roma è testa di serie. È più facile. Perché comunque in questi anni è cresciuta, eh? Non lo so, adesso verificheremo. Il Napoli era testa di serie col Bilbao, però ve lo ricordo. Esatto, ma no, ma... E l'anno scorso è arrivato in semifinale di Europa League, che sappiamo che vale per il ranking, ma adesso io già c'ho tutto qua davanti, ho già preso Cassiesa, quindi adesso vi dico tutto. Hai studiato, ragazzi? No, non ho studiato, ho aperto internet. Il Napoli è la sedicesima squadra. Allora, il Napoli è la sedicesima squadra ad oggi d'Europa, quindi credo che non abbia proprio nessun problema. La Roma è la 51esima. E quindi qualche problema. Ma secondo me anche col 50... dipende dal discivolamento, da chi, ma dipende anche chi dipende ci da chi ci arriva, però 51esima, tu considera che tutte le squadre che saranno già inserite nel tabellone già te le mangi, no? Quindi secondo me ci sono ottime probabilità. Va bene, grazie Antonio. Ragazzi, un abbraccio a tutti. Grazie. A parte di più per perché è più largo, perché sono più largo. Ma non solo per questo, però voi siete troppo. Ma quando ci vediamo più che altro, Giordano, quando ci Organizza. Ah, puoi venire pure faccio... De Luca che è napoletano svizzero. Ordino la pizza? Margherita? Ma senti, allora io, De Luca, adesso sono un po' di anni che sta a Milano, tutto preciso, mi cazzia se sto in ritardo, mi telefono la mattina e dice ma non sei ancora sveglio, cioè fa delle cose, io un po' mi preoccupo. Adesso non lo so, tu che dici? Ragazzi, te lo porto giù. È tempo di rimandarlo. Te lo porto giù. Ce l'avete cambiato. Riportatecelo giù. Va bene, De Luca, riportiamolo giù. Belinazzo invece è napoletano, no. Proprio, no? Belinazzo è napoletano dentro. Ciao Antonio, grazie. Ciao Antonio. Ciao ragazzi. Dai, che abbiamo Mario da Roma e Paolo dalla provincia di Arezzo. Vediamo di fare tutti e due, però mi raccomando, sintesi. Mario. Buongiorno, volevo dire che io tifo Napoli, ma secondo me la Juve lo scudetto l'ha vinto in società. Perché hanno organizzazione aziendale, mentre invece le altre hanno organizzazione artigianale. Questo volevo dire. Non so se condivido. No, ma è anche quello che sta succedendo adesso. La Juve sta già progettando l'anno prossimo e quello dopo. Il Napoli, e questo ad esempio è la mia critica, ragiona se Sarri sia o no l'uomo per il futuro. Magari sta aspettando di capire in che posizione arriverà il Napoli, come ci arriverà per poter magari insomma poi ricontrattare l'ingaggio o il prossimo step. Insomma, non si programma così la vita di una società di calcio, perlomeno insomma non se si vogliono raggiungere certi risultati. Intanto un amico ti scrive: Pardo ha appena fatto fuori la Roma ai preliminari, col suo pronostico. Questo scrive un amico, Paolo dalla provincia di Arezzo. Paolo. Sì, una domanda velocissima per Luigi Pardo. Sì. Innanzitutto complimenti per la trasmissione su Italia 1. Ciao. Senti, un'informazione. Secondo te, dopo il flop di Dzeko, la Roma, chi prenderesti se fossi allenatore o dirigente della Roma per cercare di trovare finalmente una punta da 20 gol al Real? Lewandowski, va bene? Va bene. No, io Müller, che ieri è rimasto in panchina, quindi evidentemente c'è rottura. Sì, c'è rottura. Poi se c'è andato qualche giornalista italiano a dire ma ti piacerebbe venire a Roma, lui ha detto Roma, idea Roma, oppure Roma arriva. La forza del brand. No, insomma, le soluzioni sono chiaramente soluzioni alternative. Dzeko io ti dico la verità, credo che sia un flop più di atteggiamenti che di numeri, perché alla fine la stagione di Dzeko è una stagione, considerate gli infortuni, non così catastrofica dal punto di vista dei numeri. Lo è dal punto di vista dell'atteggiamento in campo, dei troppi gol importanti, spesso decisivi, che ha sbagliato. Insomma, lui ha delle responsabilità su Bergamo, che rischia di essere la partita che preclude alla Roma il secondo posto. Ha delle responsabilità a Madrid, quando poteva comunque almeno riaprirla in due occasioni sullo 0-0. Quindi io penso che... però non penso che, non che ci sia per quello che doveva, io non penso che ci sia la voglia di venderlo a qualsiasi costo, eh? Cioè io penso che la Roma cercherà di monetizzare, come cantano i cani, dovremmo monetizzare questo nostro grande amore, vedo Capuano che annuisce, sì. La Roma proverà a monetizzare, secondo me, e a venderlo bene, non a svenderlo, anche perché, come diceva l'altro giorno Sabatini, altro grande punto interrogativo nel prepartita di Manchester Real, diceva il problema della Roma non è l'attacco, e questo è evidente, cioè la Roma dove deve migliorare, secondo me, lo diceva anche Garcia, questa cosa, che il problema era la difesa. Dobbiamo fermarci, però domani dopo il GR delle 14 torna il teorico del Pullman, Carlo Genta. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Federico Binda in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, ciao anche a Marco Bellinazzo, andiamo ciao. A sentire i numeri del Milan, ci sarà da divertirsi, a domani, eccezionale. Saluti.